Lua, Rena, tu, le Marie, tar qui, Osva, lui. Chi ste ho fatta belle pulite? E mi chiamo Giuseppina, una femmina ro sud. E sono nato 1905, ma tutto mi chiamano Pappanella, perché so bellella, paccerella, paccerella. Sono casi con di 8 figli. Scuola non ha già fatta, però mi sono barata la vita tutti i giorni. Io mi sposai guaglione e sono stata subito mamma. Ha già avuto a combattere tutti i giorni la guerra, la fame, la miseria e la lura. Tengo quasi 100 anni. Ha già visto mondo cagnato e carrette e macchine, treni, la luce, l'acqua, pane, la televisione. E guaglione che sono diventata padre e mamma. Tengo che contà. Ero 1971 e Renata, figlia, mi si è attaffata una vista di in de spalle perché teneva una tosse forte, forte assai. Quando è che fui a sera che eri aiuta a domierga, io ero a puteca, a dois, per sapere cosa come stevano. Ma la moglie mi ricetta che cosa non stevano tanto buona perché teneva una macchia di in de spalle. Ma ricordo che mi ritirai a casa chiagnenna, pensavo a quello figlio mio che faceva un sarto, e che era un sarto davvero sopraffino, che se non nasceva a caserta, mo fosse diventata Valentino. Un sarto grosso assai, quello che venne nei vestiti pure a Parigi, all'America. Ma poi è stato meglio così, ci piaceva l'aria nostra, e io potevo avere sempre, ogni giorno. Ma denunciai annanzi a una statuetta di San Sebastiano che mi aveva regalato il giorno che mi era sposata una cugina era mia, Filomena. Tant'è che io pensai, uè, e che regalo è questo? Che mi augura la vita con Manu Martire, santo mio, perdona, mamma, o giorno del matrimonio non è bella a pensare a sta cosa. Filomena, che se ne era adunata il suo pensiero, ero mia, mi ricetta, Pappinella, questa è una statua santa, a teneva nonna Vincenzina. Se veramente tiene bisogno, dice 3 novenne per isso, e non ci spio servizi che ti serve. Io non ci avevo mai chiesto niente, no per superbia. No perché non ne teneva bisogno, ma perché cosa mia mi risolveva Camarone nell'arca, o al massimo con Sant'Anna nostra. Ma per sto fatto figlia era talmente disperata che pensai, mo c'ha di manna grazia, capace che siccome non ha già mai chiesto niente, ma fa subito subito, se no come da fa che lo figlio mio agli annanzi. Ogni giorno gli va a puteca addorenata, o giorno a priesta e per tanta miseroppa, e ci portava fette carne, perché essa perdeva sangue per bocca e sapeva che la carne fa sangue. Poi la sera me ne tornava a casa e pregavo il santo martire. E figlia Renata verso l'8 la sera si ritiravano a puteca e con il pallone. Loro si aspettavano in coppa la macchina per cosa e mi ricevono, ah no, raccontaci i fatti della famiglia, la guerra, e contava tutte cose. Loro mi ricevono, ah no, raccontaci i fatti della nonna Valentina. Valentina era marittima, faceva ferrovieri, un bell'uomo, un poco curto, ma un bell'uomo. E proprio perché stesse faceva pure lo zezzo, lo piaceva nei femmine. Ma ricordo sempre una volta che ho iettato a chiappare a casa una certa Leonora, che poco teneva sta femmina che non teneva. Certo, si era fatta bionda, ma chi lo bionda fava, teneva pure un bello davanzale. E anche l'altezza non era male. Come si dice, altezza, mezza bellezza. E allora, insomma, chi è? Io era la moglie innanzi a Gesù Cristo e tanto ad abbastà. Il era fatta a spiva parecchi giorni. Il sasceva e sceva a priesse. Un giorno, due giorni, 3 giorni, niente. Stufatendi e solo al bar a via San Carlo con gli amici. Finalmente, un sabato di maggio, ove che asci. Ma righi, sti schifezze è facita proprio nel mese dedicato a Maronna, che la bella vergine. Versa control, ove che sa a casa e sta femmina, il lietta a priest, bussai, e smarabet, E voi chi siete? Chi sono? Chi siete? Sono la moglie Valentina, sono una femmina legittima. Oh, che onore! Qua se non viene Valentino non si mette tavola. Ho già fatto una pasta e fasula che manca da abbrzagliare a Napoli. Ve ne volete portare un poco? Uè, zucculo, caccia marito, ma via fuori. Marito mio, se no vi volete abbasciare tutte e due. Ad che bersagliera. E fui a così, che Rodolfo Lavandino, come mi detto non mia, se la vai o vizi e i gullati femmina. Ma us facciamo, tenevo pure una tuvizia, le piacevo vino, e come si dice, bacca, venere e tabacco. E quanta volta la giù ti ha pigliato, mi portava a casa, imbriaca frace, da cantina, do tagliamonte. Però non porto tutte ste cose. È stato l'unico uomo della vita mia e l'ha voluto veramente bene. E mi rispiacetta assai quando la prima coscia è in gangrena e ci avete da tagliare. Poi non hanno roppa, le tagliarono pure la seconda. Essa così rimanette in coppa a seggio, senza possibilità di se muovere, e mi spiava tutto a me, come una creatura. Le piaceva cucinare. Sapeva fare tante belle cose, un pulpettone, usare tuoi ris, i mucilli, che sono i mucilli, e spaghetti con dinte di puparuola, l'oliva e i capperi, una prelibatezza che manco meglio chef. Un giorno Sant'Anna faceva pure pizze per i figli e per i nipoti, e guaglione stavano tutto un coppo barcone per aspettare che essa tornava dalla processione, e si metteva a infornare, e uscivano calde, fumanti, saporite, napoletane con l'aglio e l'origano, marinara con l'acciuga e i capperi, e perfino la margherita con la mozzarella di Aversa. La gente passava, sentiva l'addore, salutava e spiava: «Ne magre, si era puto una nuova pizzeria!» Nel mese di febbraio del 1968, Valentina Muretti. Non aspettai manco a lunedì in Albis. Per lui un giorno importante, importante assai. Non era Pasquetta, sino gli avevamo in dei giardini a Reggio. E ci portavamo tutto a benedire. O casa di canzogna, a frittate maccarune, e pastiera, a colomba. Com'era felice. Essa mi guardava e gli occhi suoi pare che dicevano: «Pure noi oggi siamo come un re». Faceva freddo quella mattina, che lo freddo cade gelinto all'osso. «Giuseppe, voglio bere un po' di vinello, però ad essere quello buono, quello che faceva tanto anni fa zia Antonia». «Sì, mo dobba capigliare, c'è tia». E pensai: «Uè, chi lo zia su sta chiamando? Speriamo che non sta ricchi in tuo paradiso, ma perlomeno in tuo purgatorio». E se sospirai e chiurette l'occhio. Manca un secondo ci mettette a morire, muretta leggero leggero, o contrario era la vita sua che pesante assai era stata. I madonocchiai vicino a lieto suoi e lo raccomandai a tutte le anime care del purgatorio e a mamma sua che l'aveva partorito e che se lo stava ripigliando in seno. A così muretta Don Valentino, un marito mio. La vita senza essa fu brutta. Io volevo bene assai. Ero padre ai figli miei. Non è che mi riceve tanta parola gentile. Parlava poco. Però ogni mio santissimo onomastico accattava il zeppolo, 20, 10 fritte e 10 cotti in tuo forno. A mattina presto scendeva e gli va do benefico. Poi veloce veloce se ne tornava a casa e se ne voleva mangiare subito uno insieme con me, metà parona. Io ce la stava a parte con la marena, non è che mi piaceva, ma sapeva che essa ci aveva pazza. E che la zeppola che ci mangiava me e 7 la mattina valeva più di ogni regalo, più di ogni altra parola d'amore. Una sola volta mi aveva ritta sia vita mia, ma mi era bastata perché ci resta tutta me stessa. Era luglio e faceva assai calore a Caserta. O Parrucchiana aveva organizzato una scampagnata in Coppa San Michele. I ci etto con tutte compagne mie, Adelina, Carmela, Filomena. Issa, stupiezza e fatendona, guardava. Guardava e fumava una sigarettella. Nuraggio solo, illuminava i capelli suoi, pareva un angelo sturiavulona. Tutte compagne mie pensavano che questa forza sta guardando a me, sta guardando a me, sta guardando a me. E invece no, io sapevo che essa guardava proprio a me. E se guardava e sudava, e se guardava e sudava, e se guardava e sudava, tanto che pensai, santo Michele mio, pensaci tu. A sera, quando ce ne tornavamo a casa, io solo tramontavo, essa mi venette vicina, e fretta mi mettette che lui mazzolì le margaritelle in mia settimana. E mi ricetta che la parola sia vita mia. Che emozione, che batticuore. Ma mi bastarono quei 4 fiorellini e che la parola, perché il cuore mio pigliasse casa dinto suo per sempre. Ma sono passata tant'anni che essa è morta e ogni giorno vado a trovarlo al cimitero e ci porta i margaritini quando ne trovo. Io mi ricordo tutte cose che facevamo io e Valentina insieme. Portavamo i guagliuni al mare, a Rummenica, con trenere e bagnante. Io preparavo i marenna e partevamo. Come si divertivano le creature, casabbio con il mare, impazzivano dalla gioia. E io avevo tenere tante occhi aperte, perché pur essa diventava creatura e urlava e si sporcava tutto. Ma poi all'intrasatta stufa tantone non moveva più, niente. Spariva, addivandava con mano fantasma, hai voglia di chiamare, hai voglia di tirare, poteva pure sparare una botta, niente, stava tutta un'altra parte. Perché? Perché se ci poneva a guardare tutte queste femmine che si mettevano con tutte cose fuori, guarda qua Valentina, si è tutta, si è morta, che vergogna. Io costume non me l'ha mai mise, mi mettevo prendisole e mi infornevo sulle piedi. Valentina invece non sapeva proprio nuotare, ma sottava insieme le creature che tenevano le cifre, ma esse mi parevano una paparella. Quando la sera ce ne tornavamo a casa tutta appicciata e sola, esse se la mandava che ci abbruciava le rine, e allora ci passava l'olio a olive e piano piano si calmava. Quando la cosa era proprio pesante, io ci passava pure una certa acqua che mi aveva portata zitittina da Lourdes, la famosa acqua di Lourdes. A così se piano piano non se la mandava più e si addormeva. E io guardava fissa fissa. E ogni volta che pareva la bocca che si allargava per se fare una risatella uscitava. Ricevo guaglio, io ti saccio, tu ti stai su nanna e cosce qualche signorina. E ogni volta che ti suoni di scelta, ti giuro, non ti faccio dormire più. E che esterne vacanze nostre. Oggi vanno tutti in ferie. Ci sa dai. Maria Guaglione, figlia, picciarella, era bionda e con l'occhio celeste e faceva parecchi servizi dintà a casa. E poi avanziamo con figlia, ma Renata a due americane. Un echista, un certo Robert, sa voleva sposare, sa voleva portare l'America. Come son detto padre, non ha facetta scicchio. E forse fosse uta meglio se fosse sposata con Kill. Kill, stu Robert, ma esso si faceva chiamare Bob. E proprio a così, con Manucana, so cose pazze sti americani. Ci mandava in tavoletta una cioccolata buona, buona assai. Eppure certi bustini che si sceglievano in dall'acqua e caffè, che noi non sapevamo manco che era. Certo, il caffè facevano poco schifo, pareva brora, ma allora non si trovava a miscela manco a morì. A Valentino non ci piaceva proprio chist. E poi si sfastariava che chist mannava cose, era un uomo orgoglioso, orgoglioso assai. Ma quando la cosa tramontai definitivamente, fu una volta che esse mannai un russetto russo per me e un profumo per figlia. Come son detto Valentina, abbia a Luca. Ma chi se crede essere? Ma chi va pigliato? Mo vado a fucà. Sì. Valentina era un uomo geloso. Geloso assai di me e pure della figlia. E così fornetta la storia all'americana. Peccato. Sapia invece un siciliano, un certo Ugo, era in Catania. Faceva un poliziotto, sa portare guaglione a Sicilia, la facetta fa tre figlie che lo disgraziata e poi la sai per se mettere con un'altra femmina. Maria però non se n'è mai voluto tornare a Palermo. Là ha cresciuto tutte e tre i figli, Pompeia, Giuseppe e Mariella, che oramai si sono fatte rosse. E ci sono giunto a trovarla. Maronna, che viaggio in tacchi lo treno sola, perché marito mi riceve. Un padre non va a trovare un figlio, ad essere o contrario, se no si è cagnato un mondo. Anche se ha sempre pensato che un motivo vero non era chiesto, ma era perché teneva paura di passare un coppo mare. Anzi, ha voluto sapere la verità, chi era ancora geloso della figlia, non c'era potuto passare un coppo, che chi lo figlio entrò, l'aveva pure lasciato. Ma non ci vado più a trovarla a Maria a Palermo, perché mi sono fatta vecchia, o treno non lo saccio pigliare più. L'ultima volta, invece di scendere a Palermo, scendette a un paese che si chiamava con molli cuore, Marsala. A Maria aveva solo quando mi venne a trovare a Caserta, eppure i figli, solo il marito, non l'ha mai vista più. Tarquinia è un quinto figlio mio e tiene cinque figli. Fa di grinta la fabbrica dove costruisce i treni. È stata una croce per me. Tiene lo stesso vizio ropato, le piace vivere e quando aveva avuto non capisce niente più. Perde la capa e scassa tutte cose rinta a casa. L'anno passato si era fatto pure un bello mobilio, ma a furia di vivere ha scassato tutte cose. Qui a mamma fa o brava non bevere. Mamma statta zitta, assetta da vicino a me non da muovere. Ma mogliere devo aiuto a dove stanno. Mamma non lo saccia a due aiuti. Insomma, vira se io non tengo ragione. Io chi stanno aveva fatto un presepio bello, bella assai, o più belle via San Carlo. L'anno passato Salvatore o Salumiere o facette meglio me. A mogliere è apposta a San Gregorio Armena per cattare i pastori. Tu, mogliere mia, non vuoi manca a Mataluna dove compare Alfonso che è uno che li fa mano. Hai capito, mamma? E allora non ci ha già visto più, ha già perso la capa e ha aggiuntato tutte cose per l'aria. E E va a buttar qui mo. Mo ce va chi a Mataluna do compare Alfonso a te pigliare i pasture. Che ti serve? O bambaniella nera? O remaggio? Poi? L'asinello? E così, piano piano, si calmai. Ma quanta volta mi ha fatto pigliare paura. Noi giorni avevamo deciso di passare una bella giornata a mare. Ricettisse, andiamo a Castel Volturno, la sta a Pineta. Un giorno appresso partettamo tutti in da macchina sua, che la mattina guidavamo ieri. Issa stava a fianco, dormeva, perché invece si fa una bella zuppetta e latte, si era fatta una bella zuppetta e vino. A un certo momento lo viaggio, se scetai Tarquini e sotto in con la moglie. Ma che stai facendo? Suo fa morire a tutto quanto. Chissà che brutto suono si era fatto in lo stesso pensiero causato dal vino. La moglie per detto controllo e fnette per indano fosse, per miracolo non ci facettamo niente, l'avettamo veramente buona. Evidentemente nostro signore aveva deciso che non era ancora un momento di ci chiamare, solo qualche graffio e niente più. Sulla Tarquinia che stava annanzi si spaccai a capa. Arrivato all'ospedale, o mi era che ci aveva a mettere 7 punti. Tarquinia si alzai a coppa a barrella e a cominciare a luccare. Fatandona, sei tu che mi hai fatto spaccare a capa. E fuieva presso o mi era che fuieva annanzi e Tarquinia appresso. E è che la povera moglie a fui appresso o mi era che appresso a Tarquinia. E guagliuno rerevano. A un certo momento mi pareva proprio un toro. So voleva ingurnare. Steve rindo delirio causato dal vino che ci aveva venuto la sera prima che lo fatente Beppe Baccone. Umiere che galluccava, aiutatemi, aiutatemi. A un certo momento erano più e 20 persone a correre. Alla fine un poliziotto facette a ragionare. Tarquinia si calmai e si facette a maragà. E ce ne tornaimo a caserta nostra. Ah, che giornata umana! Ma alla fine erano bravo guaglione. Quando non aveva bevuto, mi veniva vicino, mi voleva bene, mi abbracciava, mi stringeva, poi mi pigliava in braccio e mi faceva girare torno, torno. E io sentivo il cuore suo che batteva all'aria felice. E teneva pure una bella voce, cantava quelle canzoni che mi piacevano. Torna sorridendo. Fammi campare. È morto. E questa è la cosa più terribile. Ma una mamma poveria ha un figlio morto. E mica sono forte come la Vergine Maria, covretto figlio suo e Gesù crocifisso, sempre sia lodato. A me non mi facette avere più. Io non ho avretto mai più. Sta faticando a Napoli. Sta faticando a Napoli, movena, movena. E chi lo figlio mio non venette mai più. Si era gonfiata la pancia che pareva una femmina incinta. E invece chi le stava cubando la morte là dentro. E morette dentro ospedale, solo, senza una carezza alla mamma sua. E chi è il secondo figlio che ha già visto morire. O primo fu Tullio. Era 1946, era un tempo brutto assai, da poco era fornuta la guerra. Pure a Caserta tanta gente era morta. Sotto il rifugio dei Salesiani, là sono rimasti sepolti due compagni e me, in un hotel, e Genoveffa. Eppure Carmelina, la sora cucina di papà, che ci voleva veramente bene. Ma si sa, le guerre sono così, morne sempre un sacco innocente, sempre a gente poverella. Male a chi l'ha vista. Ebbene a chi non sa perché. Noi ci eravamo salvato tutto quanto. Valentina faticava con Manucciuccia, la sera tornava distrutta la fatica. Sapevano aggiustare tutte le linee che erano state distrutte dai bombardamenti. Si rifaceva all'Italia nostra. Io stavo a casa. Pulizzava e cucinava quello poco che ci potevamo procurare. Mi ricordo sempre che erano viernes a mattina. Io stavo lavando i panni e pensavo in capo a me, stasera voglio a chiesa, voglio farmi venire il romese. Si diceva pure che sarebbe venuto un grande padre predicatore, padre Izzo, Meno male, pensai, rimane sabato. Marito mi tenno turno e riposo e postano poco a casa che io vogliono. E i figli miei stavano tutti per mia via. Erano verso l'11 la mattina. Quando all'indrasat, Maddalena, la moglie Pascale Capevacca, per mezza via, all'uccanna come un'invasata, ricetta, pappanè, venite, corrite, subito, andate a Ponte Napoli. Che è successo? O figlio vostro, Tulli, ha pigliato una bomba e ci è scoppiato in mano, ma nonna, che si è fatto? Corretto subito verso il ponte e dintà capa mia pregava, faga non si è fatto niente, faga non si è fatto niente, faga non si è fatto niente. Ma quando arrivai capetta subito, tutti mi guardavano, cento occhi in collo a me, capetta che figlio mio era morto, e mi butta in terra, non masceva manco una lacrima, sulla ritta e viscera un suono che all'inizio mi mettette pure paura, chi è che allucca così, pensai, ero io, mi si stava squartando il cuore, Tullio, oh tu. Belle mamma abbia a Lucca, la signora Maddalena mi teneva ferma. Tullio, vieni a mamma tua, bello cuore mio, vieni qua, ce ne andiamo a casa. Mamma stasera ti accatta l'uovo e ti fa frittatina. Fatta vedere, non ti preoccupare, non ti allucca, non ti ronca e mazzata. Come ci piaceva la frittatina a chi lo figlio mio con una foglia e basilico. Io non ce la potevo fare sempre perché l'uovo costava assai. La gente stava ferma, immobile, non si sentiva più uno fiato, poi una voce, Pappanella, Pappanella, e Valentino correva con mano pazza e chiagneva e alluccava, nome mio, nome ro creatura, Tullio, e mezzaia, disse quasi mi manai per l'aria, correva, tutto si scansavano, perfino i poliziotti, s'addenucchiaia, poveretta che savutai e chiano chiano, tenevo curpicina e tulle nostre in braccio. Mi pareva il corpo di Cristo nella processione di Quaresima. Valentino teneva la capa basciata e lo bagnava che lacrime. O figlio mio, che lo bello teneriello dolce, figlio mio, non teneva più un braccio e una coscia. Il sangue cadeva goccia a goccia per terra, facette una puzzatella di sangue innocente. Ah, signore mio! Ma perché un creatore che puzzava e giocava in coppa Ponte Napoli a Damurì? Perché a Damurì, pa' malvagità, pa' cattiveria dell'uomo? Quanta giorno poteva campare ancora? Quanto ancora si poteva divertire? E invece in coppa a chi lo Ponte Napoli avette a morì sulla mente mentre lo facevo creatura? Ma come si fa a capire una cosa così? Gesù crocifisso, addolorata mia, mi ha fatto chiagnere il lacrimatoio sotto la croce. Il povero Gesù Cristiello, senza un braccio e una coscia, un braccio o padre suo, sangue innocente, angiolillo mio, mo sta seppellito insieme al padre. Chi so può scordare che la capuzzella che appennevo con mano agnellina accisa, una piezza di cuore mio è rimasta là, per sempre. Maledetti, maledetti, anima santa, anima e Dio. Arrivai proprio tardi, io tenevo già 41 anni e a verità mi ha detto pure un poco scorna, ma come si dice, a grazie a Dio non si rifiuta mai. Chissà se perché arrivai tardivo o no, tenevo pure una fissazione, volevo fare l'attore al cinema era piccirilla e stava allora annanzo allo specchio e s'accungiava i capilli e povreva che asottava in terra e che a botte in due stomaco correva e diceva: che è successo mamma? Non mi interrompere, sto un gaffo sceriffo. Poi s'aizzava e con un ditino puntato pum pum come una pistola, maronna mia, e voleva sempre andare al cinema, ca sordi non ce ne stevano, ma essa tanto faceva e tanto riceveva sto mobile che il padre c'era la mazzetta e si correva al pidocchietto a via Napoli a dove si pavava i meno. Io portai pure ai repriva di Salesiana che tenevano un teatro e tanta guagliuna si divertivano a recitare. A così eva la purissa e stava sicura, si poteva divertire. Niente. Oh, quella capi bomba mi ricetta. Mamma, tu mi capì? Io voglio fare l'attore del cinematografo. A me il teatro non mi piace. E poi tutti questi guagliuni che stanno rindi Salesiana vanno recita per divertimento. Io sono serio, tengo un progetto, sono professionista, io vado a Hollywood e mo che resto Hollywood ricetti io. Mamma, è la terra mia, a dove si fanno i meglio cinema di tutto il mondo. Poi quando sono diventata famoso, ti chiamo pure a te, ti faccio la villa, bella mamma mia. E così mi faceva fessa. Ma dentro a me pensava, e come facciamo mo con questo? Fa veramente o è proprio pazza a fine la vimma ricovera verso? Mi doveva pure stare accorta che il padre non sentiva e non vedeva tutte queste mosse che essa faceva e queste parole che riceveva, casino lo scuscinava di mazzate. A Valentino non ci piaceva proprio il cinema, diceva: so tutto pupazza che sti qua. Ma secondo te Trottolino ha mai fatto un cinema o no? E beh, io non lo sapevo se Trottolino aveva fatto un cinema o no, sapevo solo che era un bravo comico dell'avanti spettacolo e che Valentino ogni tanto era pure a Napoli al teatro per sovere. Anche se ha già sempre pensato che un motivo vero che aveva a Napoli non era tanto per bere a sto Trottolino, ma per bere coscere e ballerina. Un Valentino sta attento a te che fai a finire e botta a muro. Qualche volta a Rumeni io convincevo pure a ci portare a me creatura al cinema, sempre al pidocchietto a via Napoli. Non vi ricordo sceriffo, o figlio mio, sembrava un giorno più bella la vita sua, s'appiccicava che i frati, statevi ferma, statevi zitta. Io spiava, chi le ripeteva tutte le facce, le espressioni di questi attori, ma parevano pappavalla. Maronna, l'arca mia te lo raccomando a te, chi sta fa una brutta fine. Là si facevano pure i cinema senza parole e tra un cinema e nato suonavano pure certi suonatori. Un egil noi lo conoscevamo, si chiamava Capece, suonava clarina. Un bravo uomo. Come stu Capece cominciava a suonare e i guagliuni la ricevano: Capi, o tieni a mocca che non suona. Allora essa si sfastriava e rispondeva: ia daffa a mocca chi v'è morto. E che poveretti uccina, ma succedeva una baronda, ulava una seggia sputazzata, ce n'aveva ma soli a casa. E lui disse che ero più piccerillo, quasi quasi voleva battere frate. Poi appena arrivavamo a casa stava per parecchi giorni in silenzio eppure riuno. Allora diceva vicino e diceva: lui bella mamma, mangiate qualcosa. Mamma, tu non puoi capire, il fatto che successo è grave assai. È come se tu fossi udita a chiesa e ti fossi messa a sfottere la sacrestana che serve a messa. Capice? È come fosse una sacrestana. Capice una sacrestana? un maronna mia, Spirito Santo mia, pensaci tu. Che fine ha fatto sto figlia mia che voleva fare l'attore o cinematografo? È stata sempre a casa con me, ha fatto di casa a ranch, non lavoretta mai una là. Si è sposata, però a via se n'era a casa mia non avevo pigliato, per tramentissa, la moglie e i figli stanno a casa con me. Sta villa a Hollywood non è sciuta, ma meno male che non è fornuta verza. Osvaldo, la tua figlia mia, ma va bene assai, però non mi può fare tanto vere, perché se no la moglie si piglia collera. Essa dice che va più bene a me che a essa, che poi è vero. Esistono sti femmine che sono gelose della mamma del proprio marito. Scusate, volesse riceria, ma sapete che chi l'ha passato 9 mesi nella pancia della mamma? Che corpo e anima soia, che cuoricina batte insieme o corre la mamma meglio della migliore sinfonia scritta da qualsiasi professorone di musica? E i figli miei sono nati tutti rinda a casa. E quando sentiva che il dolore che si spanneva da tutta parte, pare che mentre nasce una cosa a te, tu stessa ti squarta. Non si può spiegare, o dolore, a gioia è tutta ammiscata insieme. E il miracolo di nostro Signore sempre sia lodato. E allora, è possibile che un figlio non va bene a una mamma? Pure quando la tratta male va bene. Io a mamma e Valentina l'ho sempre rispettata. Essa diceva quando ci volevi. Certo, pur io mi sono amareggiata per qualche parolina un poco velenosa. Ma sono cose che succedono. Allora, io volessi dire a sti figlioli, godetevi il marito vostro, ma non vi illudete che lo fate diventare forestiera la mamma. All'inizio vi dice pure che sì, ma poi passò tempo e la mancanza della mamma si fa sentire. E così Osvaldo ogni tanto mi viene a trovare sola e mi danno un sacco di baci e ho più cianciuse le figlie mie. È un faticatore, assomiglia a sé o padre, e io voglio bene, bene, bene assai. Ma che dico, i figli sanno volere tutto quanto bene, hanno essere tutte uguali. A casa sui 9 non la conosco, però sa c'è dove sta. Ci passava annanzi quando iva a trovare frate ma Gaetano al cimitero. Io che ancora in luce spiaverindo il portone, e seppure non ci stava nessuno, sentiva l'addore ai figli ed ero contenta. Gaetano, frate, è morto l'anno passato. Faceva pure il suo sarto, teneva una poteca a avere i pesci vendolo con mia figlia Renata. Tutte e due, c'è a me il numero bancalotto. E con che foto avevamo pigliato pure. Robbe poche, però ci aiutavano a sta meglio. Quando vago cimitero a trovarla mi fermo sempre innanzi a essa e ci faccio certi belli chiacchierati. Io me la ricordo quando eravamo piccerilla, creatura, dintava nella la nonna che pazziavamo capo alle pezze. Era un tempo bello assai. Gaetano era zuppa e non ci faceva tanto a correre e noi l'aiutavamo sempre. Oh, ci ha chiesto pure qualche volta mi ha due numeri buoni per mi fare un tornuscello. Ma esse niente, niente, non mi imporrà. Era un po' rispettoso. Era un po' rispettoso pure la creatura. Ma mamma mi diceva sempre, Pappanella, tu lo devi capire. E chi le tena coscia più corta, se sente offesa. Pure il compagnello sfotte, neanche come lo chiamano, Gaetano Zuppariello. Ehi, capeva, capeva. Ma mo che si è morto, si è uguale a tutti quanti, a comricio Vangelo. E già Gaetà, tra 1.003 numero buono, io ti vengo a trovare tutte e domenica, faccio 3 piani scala a piera, ti porto pure i fiori. Certo, non ne va a cattà, ma robrindo il giardino della famiglia Palmieri, però. 3, 15, 19. Mi pare che fosse la voce sua. E rimane me bagagliuca. ormai per 7 settimane che li numero non accetta mai niente. Mannaggia te, zuppariè! E questa è stata la vita mia. Mo che Luigi se ne aiuterà a casa mia. E io sono rimasta sola. Tutte le figli hanno detto che io non potevo restare sola. E mi hanno messo vicino per mi fa compagnia a questa Maria Puzzo. Maria Puzzo è una parente della nostra. La moglie di Luigi Poeta. L'ultimo frate di marito. Non è che mi piace stare sta cristiana e chiatta chiatta e poi vuoi solo mangiare e poi parla sempre italiano. Pepinella non fare questo, Pepinella ha detto a quest'altro. Ne, ma insomma chi t'ha rata da conferenza? Ma chi sei tu per mi dire a me quello che ha già fatto, quello che non ha già fatto e che ha già tenere rinda a casa una maestra? No, grazie a signoria io saccio a me. Ma oramai sono 2 anni che sta attorno sta con me. E i figli miei così vanno 3 anni. E per non farli preoccupare mi sto zitto. Ma che sta capo non l'aiuta proprio. Che la mattina è venuto figlio Renato e corsa la mattina a casa. E mamma, che la stamattina è 7 è venuto zia Maria, alluccava. Mi voleva affogare, mi voleva affogare. Ha scettato pure il creatura. Chi dicevi io? Come chi? La vostra madre. Allora ripensai, sei impazzuta mamma, a facetta settà, a facetta gammà, una bella tazza di caffè, poi ricetta, zi Marì, ditemi, io l'ho sognato, ma mi sembrava vero. Eh già, io poi affugava essa, ma che me ne importa, tu hai capito la sognatrice che si firava fa? Io non la voglio più, voglio stare sola, meglio sola che male accompagnata. Tanto, tengo tutta l'anima cara che mi fanno compagnia. A volte sento pure che mi chiamano. Papà ne, mamma, sora mia. E allora io pure rispongo. Gioà, Renà, Tullio, Maria, Tarquì, Osvà, lui. Chi ste ho fatto bella e pulita. Io mi chiamo Giuseppina. E sono nato 1905, ma tutti mi chiamano Pappanella, perché sono bellella, pacciarella, pacciarella. Sono la seconda e 8 figli, scuola non ha già fatta, però mi sono barata la vita, tutti i giorni. Io mi sposai Guaglione e sono stata subito mamma, aiuto a combattere tutti i giorni la guerra, la fame, la miseria e dolore. Tengo quasi 100 anni, ha già visto un mondo cagnato, e carrette, e macchine, treni, luce, l'acqua, pane, televisione, e i guagliuni che sono diventati padre e mamma. Tengo che contare, pure mo che me ne va callato mondo. Io sono Giuseppina, una femmina rosut, Gioà, Renà, Tullio, Maria, Tarquì, Osvà, lui, mamma se ne va.